Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Palla dentro verso Dybala, occhio alla coscia, ancora Dybala, Dybala, sinistro, 3-0 Juve. Il cross per Vessino, dietro di lui Perisic, un gol fantastico di Perisic, 2-0 Inter. Lulic ora a destra. Entra anche Luis Alberto, il cross arriva molto lungo, Immobile! 2-0 per la Lazio, doppietta di Ciro Immobile! Petrucci però ormai manca veramente poco, meno una adesso, bravissimo Marquez. Ingegneristica questa vittoria di Marquez. Marquez c'è e vince il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini. Chiude davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e di Andrea Dovizioso. Carissimi, c'è anche Immobile che sta demolendo il Milan di Montella, terzo minuto del secondo tempo, 3-0, perché Montella proprio pochi secondi fa, libero in mezzo all'area di rigore con un piattone di sinistro, ha battuto Donnarumma per la terza volta. 3-0, partita quindi, di cui c'è molto da parlare, carissimo domani, Carlo Genta. Domani comincia il processone al Milan. No, ma lo cominciamo adesso. La domanda è se il Milan, è stato sopravvalutato o se questa è una caduta di crescita, anche fisiologica e legittima contro una grande squadra. La seconda che hai detto. La domanda si può fare. 800-24-0024, siamo in diretta fino alle 18, l'apertura la dedichiamo ai motori, però vi do i contatti. Fino alle 19. Vi do i contatti, il numero di telefono per intervenire è quello 800 24 0024, per sms e whatsapp 349 238 6666. Avremo ovviamente le finestre per aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il mantempo nel centro Italia. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Giovanni. Ciao Robertino. Ciao, abbiamo detto che partiamo dai motori, allora vi faccio sentire due voci. La prima, Marquez, il vincitore di Misano. L'ultimo giro ho staccato alla morte, si dice, no? Molto contento perché è stato un weekend un po' difficile e in acqua sempre importante. Ho detto, dai, se Petrucci stacca più tardi di me facciamo secondi, anche era un bel posto. Ho provato ad andare fino alla fine e alla fine 25 punti, molto importante dopo di quello che è successo a Silverstone. Tanto 4-0 per la Lazio, Luis Alberto mia, in contropiede solo davanti a Donnarumma, quarto minuto del secondo tempo. Vi faccio sentire la voce, secondo me, del vero vincitore a Misano, Dovizioso. Non ho mai avuto una carta meglio di Danilo e Mark da giocare. Ero sempre un po' al tiro e dovevo prendermi dei rischi per poterci stare. Se non mi giocassi il campionato sicuramente ci avrei provato. Ma 0 punti con 16 oggi per le condizioni che c'erano, secondo me era la decisione giusta, era la decisione che ho preso. Bravo, Dovi. Allora, carissimi, 199 punti Marquez, 199 punti Dovizioso. Lascio a voi, che ne capite di più, Roberto Ungaro, dirmi chi è il vero vincitore di Misano. Roby, posso dire una cosa preliminare, Roby? Vai, Carlo. Allora, vai. Il vero vincitore di Misano è quel signore che abbiamo sentito adesso, cioè Dovizioso, che ha detto la cosa sacrosanta: oggi guai fare zero. Seconda cosa, io ho avuto la sensazione, con tutto il rispetto, che Marquez con Petrucci giocasse al gatto col topo. Vai ragazzo, ti lascio in testa fino all'ultimo giro, vai. Vabbè, adesso ciao, devo andare. Sì, questo ci ha insegnato questa gara, che Marquez aveva tutto da perdere, poteva accontentarsi del secondo posto di 4 punti avvicinandosi al Dovi, e invece no, ha voluto rischiare perché comunque ne aveva, ma ha rischiato tanto anche durante la gara. Questo ci fa capire che Marquez comunque ha una marcia in più, e se il campionato arriverà per lui sarà guadagnato, non gli si può dire niente. Comunque ragazzi, cosa avevamo detto venerdì? Se piove attenzione a Petrucci, e così è stato, bravissimo, perché ha dominato veramente a lungo. Però ragazzi, contro quel Marquez lì non c'è niente da fare. Mi è piaciuto molto Dovizioso, perché comunque è stato onesto, obiettivo, come sempre, misurato. Lui in quelle condizioni non se la sentiva di rischiare, ma quello è il Dovizioso che conosciamo. Però la Ducati è cresciuta e ha conquistato il suo primo podio in una pista a lui indigesta. Anche Pirro è finito bene sotto, quindi cioè ci sono tre Ducati nelle prime cinque, sì, questo fa capire che la moto c'è, non è più quella moto scorbutica, va bene anche sull'acqua. Lorenzo, io non ho nulla da recriminare, perché purtroppo lì è così, o la va o la spacca, e lui ha spaccato. Però avete visto come aveva preso le distanze sui primi, poteva essere per lui l'opportunità sull'acqua di fare la prima vittoria in una pista a lui molto amica. E che dire, una gara, ho sentito dire, anche monotona, perché avrà di sorpassi. No, assolutamente no, perché se uno minimamente ha provato a fare due metri con una moto, vedere quei piloti in quelle condizioni, con un corridoio appena asciutto ma neanche, e affrontare il curvone a quella velocità, è una cosa pazzesca. Hanno veramente grandi cadute, le abbiamo viste in Moto 2, Moto 3, Moto 3 credo 16 cadute, correggimi se sbaglio, il numero Roby. Voglio sottolineare questa cosa. Ne abbiamo parlato con Domenicali venerdì, lui non lo poteva dire, diceva la Ducati cresce, però questa era una pista particolarmente difficile per la Ducati. Alla fine Dovizioso si porta a casa di fatto un pareggio. Sì, c'è da dire che ha perso, cioè i 9 punti che aveva di vantaggio li ha persi tutti in un colpo solo, e quindi, però il Dovizioso è quello lì, il Dovizioso che conosciamo, e comunque è migliorato tanto, si sente di più la moto, però quando c'è da rischiare è ancora molto misurato, è ancora molto giudizioso. Però alla fine ha fatto molto bene, perché aveva su da perderci anche lui. Peccato per Petrucci, perché se la merita la prima vittoria, deve sbloccarsi, ma sì, arriverà a breve. Arriverà a breve, ma oggi non ce n'era, dai. Al di là del fatto, cioè non possiamo dire è stato in testa fino all'ultimo giro, poi è stato superato. Era chiaro che Marquez era lì a aspettare l'ultimo giro per superarlo e andare a vincere. La grande sconfitta di due spagnoli. Lorenzo, tu non hai niente da rimproverare, va bene, non rimproveriamo nulla. Io mi ricordo il Lorenzo che sulla Yamaha vinceva lì stampando giri tutti uguali, bam bam bam, te lo ricordi, no? Ma se fosse stato asciutto, e l'altro sconfitto, Vignales. Secondo me è già un miracolo averlo visto liderare sul bagnato Lorenzo, però magari ho capito male io. E invece è ingiustificata la prestazione di Pedrosa, ragazzi, ormai fuori dai giochi. Guarda, ti giro questo messaggio: Marquez merita il mondiale, è il più bravo, ma lo dimostra, poiché Pedrosa fa sembrare la stessa moto un mulo con l'artrite. Adesso, a parte il paragone che fa ridere, 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6, però Pedrosa oggi è arrivato 17esimo. È così, perché in quelle condizioni è facile sentirsi in crisi così. E che dire poi di Iannone, che si ritira perché era tutta stretta e gli procura un indolenzimento all'avambraccio. Non è giustificabile. Rins ormai sta migliorando, è lì nei 10. È bello vedere l'arrivo di Zarco. Avete visto che ha finito la benzina, sì, arrivato spingendo la moto. Dorando pietri, sì. Quindi se facciamo le pagelle di questo Gran Premio, poi domani avrete modo di parlarne anche in maniera più approfondita, diamo un bel 10 a Marquez, correggetemi se sbaglio, un 9,5 a Petrucci, a Dovizioso che voto volete dare? Ah, io do un 8 pieno a Dovizioso. Bravo, perché stiamo lì adesso, stiamo lì. Io do un bel 9, ragazzi. Dai, 9, sì. Mondiale dirà che questo podio 8-9, è va bene. Come, però, hai ragione, però, Giovanni, ma 8-9. Tu gli dai un 9, ma oggi hanno fatto due sport differenti, sì, Dovizioso e Marquez, e quindi alla fine, insomma, quando si tirerà la riga non si potrà dire niente a questo spagnolo, se lo conquisterà. Io me lo auguro, perché Dovizioso se lo merita, l'abbiamo detto. Non mi sono piaciuti i fischi sotto il podio, perché il vincitore va applaudito, punto. Bravo Roby, bravo. Soprattutto della moto, ma in tutti gli altri sport. Ma è un tema che abbiamo toccato anche settimana scorsa a Monza con i fischi ad Hamilton. Ad esempio, abbiamo meno di un minuto, poi c'è il traffico, poi ci tuffiamo nel calcio. Allora, intanto esce Cutrone, deludente per una volta, dentro Çalhanoğlu, esce Borini, Kalinic, deludente, ed entra Kalinic, quindi resta seduto André Silva, Milan che ha 35 minuti per provare a risalire da un 4-0 pesantissimo all'Olimpico. Fare il gol della bandiera. Allora, meno di un minuto, Roberto Ungaro, Aragon, Motegi, Philip Island, Sepang e Valencia. Mi devi dire quali di queste 5 piste sono favorevoli a Dovizioso e quali di queste 5 sono favorevoli a Marquez. Ad Aragon Marquez, assolutamente, e il Dovi soffrirà un po', anche la generale. Le tre invece, oltre a Ceno, la Ducati può essere favorita, e Valencia invece la do assolutamente per Marquez, che lì dentro gioca come un topo gioca in un labirinto facendo quello che vuole. Speriamo che il mini campionato che arriva adesso, la tripla trasferta, siano punti, siano bottini, se non pieni, almeno proficui per la Ducati, per arrivare a giocarsela almeno alla fine. Però Valencia la vedo dura, con un Marquez e una Honda che schizzano di qui e di là in quella pistina piccola che è quasi un cartodromo, capite? Quindi bisogna assolutamente oltreoceano portare a casa più punti possibili e poi vedremo. Comunque, facciamo una tutto, cosa. Ha segnato il Milan intanto. Ma annullato per fuori gioco? No, undicesimo minuto del secondo tempo, gol di Montolivo, batte e ribatte su punizione battuta da Çalhanoğlu, poi Montolivo si è trovato lì. Beh, evidentemente in posizione regolare. Ci vediamo a Valencia per l'ultima corsa, Marquez Dovizioso in corsa per il mondiale, magari a pari punti, va bene Roberto? Sarebbe il finale più bello che possiamo ci vediamo sperare. Ci vediamo lì, Capuano, se Capuano mi dà il permesso io... Ti manda in trasferta? Ti mandi, Giovanni. Ci vediamo il 12 novembre da lì. Allora ragazzi, c'è il traffico, grazie Robby. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Ciao. 4-1 Lazio-Milan, dunque buono il gol di Montolivo, l'avrà rivisto con il VAR, quindi lo diamo per, no, era per buono. Buono era buono. Oggi di VAR dobbiamo parlare, dopo arriva il nostro Luca Marelli perché ne abbiamo viste di tutti i colori. 800-24-00-24 349-238-6666, vi aspetto, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Tutti convocati. È sicuro che se giochi un buon calcio hai più possibilità di vincere, questo è evidente. Io credo che in buoni tratti avevamo giocato bene anche le prime due gare di campionato, però non avevamo avuto quella continuità necessaria che abbiamo avuto oggi e soprattutto l'approccio che abbiamo avuto oggi, perché è chiaro che andare in vantaggio ti mette la partita nella direzione giusta. Siamo stati bravi a entrare bene in campo, a mantenere delle buone distanze, buoni equilibri, quindi è chiaro che è stata una prestazione sicuramente di buon livello. Questo Pioli è in diretta ai microfoni di Premium Sport. 800 24 00 24. Intanto scrive un amico un sms: il Milan è un gruppo di bamboccioni entrati in campo senza grinta, ma la cosa peggiore è che Montella non se n'è accorto prima. Intanto siamo al quarto d'ora del secondo tempo, 4-1 per la Lazio, meno. Tripletta di Immobile, gol di Luis Alberto e poi all'undicesimo il gol di Montolivo per il 4-1. Saluto Xavier Iacobelli, ciao direttore. Ciao direttore. Buongiorno a voi e buona domenica dal Corriere del Sport. Che impressione ti sta facendo il Milan? No, non tanto il giudizio sulla partita, evidentemente Milan che è stato surclassato in quest'ora dalla Lazio, ma che cosa significa questo passaggio a vuoto? Beh, intanto aspettiamo di vedere come finisce la partita. A me è impressionato la Lazio, onestamente, più del Milan, perché finché i rossoneri potessero anche incappare in una battuta d'arresto all'Olimpico contro questa squadra, ci poteva stare, perché sin dall'inizio della stagione Simone Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di che stoffa sia fatto e che il quinto posto alla finale di Coppa Italia della passata stagione, la Supercoppa di Lega conquistata a spese dei campioni d'Italia e vice campioni d'Europa, non fossero episodi casuali. Poi c'è Immobile che in questo momento è baciato alla grazia, non finiremo mai di ringraziarlo anche come tifosi della Nazionale, perché se non avesse risolto lui la partita con Israele forse parleremo di altre cose in questi giorni. Il Milan è un cantiere aperto, quando un cantiere è aperto, quando una squadra viene rivoluzionata praticamente per 9 undicesimi, è evidente che ci sia la necessità di dare all'allenatore il tempo per costruire questa nuova squadra. Se poi affronti una rivale che invece schizza di salute da tutti i pori, è chiaro che le difficoltà poi si moltiplicano, ma in questo momento poi a cambiare la partita sinora è stato Immobile. C'è anche Pier, eh? Pier. Ciao, buon pomeriggio a te. Ciao. Beh, insomma, sì, sai come la penso io, una specie di teoria che dura negli anni sulla Lazio. Anch'io, è la stessa. Sempre la smettiamo di considerare la Lazio una sorpresa, una mina vagante, esatto, una stella cometa. Questa è una signora squadra. Esatto, questa è una signora squadra che cresce di anno in anno, perché c'è un effetto, secondo me, di consolidamento e di conoscenza da parte dell'allenatore nei confronti dei giocatori, quindi le operazioni vengono fatte bene, Poi ovviamente anche una partita sicuramente accompagnata da una stella particolare che è quella di Immobile, che sta giocando in maniera incredibile. Ci sono sicuramente delle responsabilità forti del Milan, perché dopo il gol dell'1-0 si è letteralmente disgregato. C'è una differenza al momento di personalità impressionante tra le due squadre, per cui insomma, è una partita al momento facilissima da raccontare. La Lazio ha più personalità, ha più condizione fisica, ha più chiarezza di idee, quindi Zaghi sta stravincendo la partita con Montella, tanto per essere chiari, e mi sembra insomma tutto abbastanza sotto controllo, anche se adesso il Milan sta provando ad attaccare, cercare di rimettersi in partita. Sì, poi dopo si aprirà fatalmente, dovesse finire con una sconfitta così pesante, il processo, anche credo sulle scelte di Montella, anche forse sulla valutazione complessiva del mercato del Milan, che resta eccellente, però se poi tutti presenti a metà settembre, non so come la pensa il direttore, con ancora in campo Suso, Cutrone e Borini, e con 80 e passa milioni di mercato in panchina, magari qualche riflessione la puoi fare. Ma l'ha già fatta prima. Ma forse è presto. No, ma l'ha molto già fatta prima il direttore. Tu non hai detto prima che bisogna lasciare il tempo a Inzaghi di assemblare una squadra che mai così nuova nella storia del calcio italiano, mai visto nel calcio, nel basket sì, ma mai visto una squadra cambiare in questo modo. Sono assolutamente d'accordo. Intanto vediamo, ripeto, come andrà. Come a va finire. A finire? Intanto Milan vicino al secondo gol. In caso comunque di sconfitta, non credo, conoscendo i costumi del nostro meraviglioso paese, che passa dall'esaltazione per l'eliminazione del Craiova, appunto, passerebbe poi ai processi a Montella per un'eventuale sconfitta sul campo di questa Lazio, sottolineo di questa Lazio. Il fatto è che il campionato annuncia nuovi equilibri. Non c'è nulla di scontato se non la grandezza della Juventus, soprattutto la grandezza di Dybala. Abbiamo visto anche ieri che cosa ci abbia regalato il 23enne giocatore argentino. Ma in attesa di seguire Bologna-Napoli, intanto che oggi c'è stata la conferma probante dell'Inter, che io credo sia l'outsider nella lotta per il titolo. Non ha le coppe, ha un allenatore che può guidarla per tutta la settimana. Perisic, non è un caso che abbia segnato quel gol meraviglioso nella settimana in cui ha chiuso la sua vertenza con la società prolungando il contratto. E a me quest'Inter ricorda, questa prima Inter di Spalletti ricorda molto la prima Juventus di Antonio Conte. Anche allora Conte si insediò sulla panchina di una squadra che era fuori dall'Europa, che veniva da due settimi posti alquanto frustranti per una tifoseria che immediatamente Conte sollecitò a risvegliare l'orgoglio di appartenenza e il senso di appartenenza. E anche in quella stagione Conte, non avendo l'impegno internazionale, poté concentrarsi sulla squadra, come si sta concentrando Spalletti, che per prima cosa ha sistemato la difesa. Gli ascoltatori rammenteranno quale colabrodo fosse la retroguardia nero-azzurra nell'epilogo dell'ultima stagione. E invece una difesa munita, abbiamo visto Skriniar oggi sì, per permettersi anche di altro sì, fallire di poco un gol che sarebbe stato sì, anche se poi ha ballato anche oggi per una buona parte del secondo tempo, così come era capitato l'Olimpico di Roma, e magari non sempre andrà come è andata in queste due partite. Sì, ma perché la Spal è un'ottima squadra, è sempre ce l'ho disposta sagacemente in campo. Questa è una squadra destinata a fare un ottimo campionato. Io ho avuto l'avventura di seguirla a più riprese nella passata stagione in Serie B, e Semplici la sua impronta l'ha già lasciata. Deve soltanto avere il tempo di consentire anche ai ragazzi che dalla Serie C, nell'arco di un anno solare, sono stati catapultati in Serie A, di ambientarsi, di pagare l'inevitabile pedaggio del noviziato nel massimo torneo. Mettiamo come la Spal si è ritornata in Serie A dopo 49 anni. Sì, è una squadra assolutamente interessante. Tra l'altro è quella che ha fatto più la scelta di restare vicina al progetto dell'anno scorso tempo. Però davanti si è presa dei giocatori di categoria, sì, certo, come si dice. No, io vi lascio due considerazioni rapidissime che valgono anche per gli ascoltatori più tardi, eccetera. Sulla Juventus, Dybala, sì, grande ieri sera, meraviglioso con il Chievo, però aspettiamo che questo ragazzo salga al piano di sopra con il Barcellona in settimana, perché col Chievo lo sappiamo. Con il Barcellona dobbiamo ancora vederlo, la prima. La seconda, sposo la tesi di Savia Iacobelli, l'Inter, attenzione, perché è una squadra pericolosa. Io la vedo dietro al Napoli comunque, ma è una squadra che sa quello che vuole. Anch'io però la vedo terza, tanto per essere molto chiari. Anch'io al momento. Ed è in qualche modo un paradosso questo, no? Cioè l'Inter ha fatto un mercato che qualcuno ha anche definito deludente, sicuramente ci si aspettava qualcosa in più, dietro è sicuramente corta, però sta andando avanti perché ha trovato un allenatore che ha rimesso a posto le cose su una base che evidentemente era già molto buona, non era quello che diceva il piazzamento dell'anno scorso. Il Milan ha fatto una grande campagna acquisti, non penso che adesso questa sconfitta cambi, però è ovvio che ci sono giocatori importanti che sono stati presi, che sono in panchina e c'è un lavoro di assemblaggio molto più. No, io credo, ma questo poi è un tema. Adesso salutiamo Xavier Iacobelli, anzi lo ringraziamo, grazie direttore. Ciao direttore. Grazie a voi. Io credo che al di là della sconfitta all'Olimpico con la Lazio, ha perso anche la Juventus un mese fa in Supercoppa, ci siano i modi che giustificheranno, comunque faranno discutere, faranno aprire anche un processo. Dobbiamo fermarci, ma facciamo velocemente Mario d'Alessandria. Mario. Buonasera, grazie della convocazione. Allora, io però disdico la convocazione immediatamente, ci risentiamo, però devi togliere il viva voce o l'auricolare o tutto quello che stai usando per la telefonata. Ci fermiamo, c'è il meteo, mai così importante come oggi, ci sono gli aggiornamenti sul maltempo. 23 minuti, 4-1 per la Lazio, siamo a metà del secondo tempo, 8-0-0-24, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Tutti convocati. 28 minuti sul cronometro, Lazio 4, Milan 1, Lazio che è andata vicinissima al 5-1, questa volta con Immobile ancora in contropiede, palla che è passata un palmo dal palo della porta di Donnarumma. C'è Pierluigi Pardo, c'è Marco da Forlì, 800 24 00 24, c'è Anna Migliorati con gli aggiornamenti sulla questione maltempo. Sì, aggiornamenti, cominciamo subito a dire che il prefetto di Livorno ha deciso per l'allerta arancione fino a domani, quindi resta ancora alta l'allerta sulla città toscana. Prefetto Anna Maria Manzone, che ha confermato anche che al momento ci sono, questi sono i dati ufficiali, 6 vittime e 2 dispersi. I comuni di Livorno e Colle Salvetti hanno complessivamente una novantina di persone che stanotte verranno ospitate nei palasport di Rosignano e di Livorno. Solo alle 19 però, dopo il prossimo vertice con il sindaco Nogarin, si potrà avere un numero un po' meno approssimativo su chi a Livorno dovrà lasciare questa notte le proprie case. È ripreso anche a piovere, tra l'altro, da circa mezz'ora in modo abbastanza intenso, e quindi mettendo ancora in più difficoltà le persone impegnate da questa mattina a liberare le proprie case dall'acqua e dalla melma. Sono arrivati anche i numeri di quel che è successo. A Quercianella, una delle stazioni di rilevamento, 42 mm d'acqua in 15 minuti, intorno alle 3 della notte. Per dare un'idea, in totale sul territorio livornese da ieri sono caduti 260 mm d'acqua, 230 concentrati in 3 ore. Domani scuole chiuse, nidi e materne ovviamente, perché le altre non hanno ancora riaperto. Registriamo anche la solidarietà dal mondo dello sport, il tweet del livornese Allegri e un tweet poco fa anche dell'Inter. Il pensiero va a Livorno e ai suoi figli, dice il club nerazzurro, un giorno difficile, giorno davvero difficile per la città toscana. Si lavora, si attendono, come dicevamo, aggiornamenti appena ci saranno. Ecco, e attendiamo anche noi aggiornamenti ancora da qui fino alle 19. Siamo in diretta e in diretta vi stiamo raccontando anche Lazio Milan 4-1, mezz'ora del secondo tempo. Carissimo Luigi Pardo, carissimo Carlo, vi faccio la sintesi dei messaggi che arrivano dei tifosi del Milan, evidentemente delusi per quello che stanno vedendo. Il principale responsabile viene ritenuto Montella, che tiene fuori quelli buoni e fa giocare quelli che invece meno buoni sono. Perché poi il ragionamento è quello, Pier. Ho premesso che un po' di equilibrio si farà sempre bene a tutti, vale prima di tutto per noi giornalisti, quindi il discorso è in assoluto, i calcoli si fanno nel medio periodo. Sicuramente la differenza che c'è oggi tra Lazio e Milan è clamorosa, e quindi dire, quando una partita come questa ha questo tipo di andamento, è una squadra diciamo meno forte dal punto di vista economico, dal punto di vista del mercato che ha fatto, domina in questo modo, è chiaro che l'allenatore della squadra che perde male si accusa. Non mi sembra un peccato, a quale peccato di lesa maestà, sinceramente. Cioè, sì, non toglie che il Milan c'è anche che dice che non basta Bonucci per fare una difesa forte. Ecco, sì, esatto. Che è l'altro, che è l'altro tema che viene posto. Questo è un vero tema. Questo è un vero tema. E poi in generale il ragionamento sul fatto che Montella si stia fidando dei suoi, di quelli che direttamente in questo momento erano più in condizione. Che si sono allenati per più tempo, certo. Sì, sì, ma abbiamo celebrato Cutrone fino a 76 minuti fa, adesso anche completamente è diventato un scarso, certo. No, rimane un esordiente straordinario. Lo stesso discorso riguarda Suso, che sta facendo bene. Borini, il suo comunque nella prima partita l'ha fatto. Quindi adesso stare qui a fare un processo in assoluto è sbagliato. Però quello che vediamo oggi è molto significativo, perché c'è una differenza proprio di personalità tra le due squadre. Certo, però Milan ha giocato bene il primo quarto d'ora. Sbaglio, abbiamo detto tutta l'estate, diamogli un attimo di tempo per assemblare una squadra. Il problema nuova. Io vi faccio due calcoli. Sì, esatto. Ma io sono d'accordo con voi, non voglio girare il coltello nella piaga, però se tu prendi 4 gol in 7 minuti più un paio di recupero, è evidente che non è come andare a Roma con la Lazio, perdere, tu sai Pier, io venerdì per dire ho detto secondo me il Milan perde e ci poteva stare tutta la vita. E c'è alle volte anche il modo che poi determina anche degli shock che possono essere salutari o meno dentro una stagione. Allora saluto Massimo Pagani intanto, ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo Marco da Forlì che ci sta aspettando e quindi lo facciamo. Marco. Sì, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione. Allora, argomento Inter, ci le chiami Baffi, siamo tutti contentissimi di queste 3 vittorie della vetta della classifica, ma io ho sentito equiparare l'Inter o una possibile... così similitudine fra l'Inter di Spalletti e la Juve di Conte. Perdonatemi, sono interista, ma la Juve di Conte aveva altro ritmo, altra intensità, altro tambur battente. Io francamente oggi i 60.000 di San Siro credo si aspettassero un po' di più, proprio perché tutta la settimana si sta insieme. Questa settimana, Marco, però andiamo a vedere la Juve di Conte a settembre com'era. Il primo anno a settembre com'era? Ma secondo me allora è chiaro che è una suggestione, no? È una suggestione quella di Giovanni di prima, che l'ha detta lui. No, non l'ho detta io, l'ha detto Xavier Iacobelli. Io ho un pensiero diverso. Io ho un pensiero che l'Inter stia crescendo bene. A me sembra che le vittorie della Juve ieri col Chievo e dell'Inter oggi con la Spal siano molto simili. Cioè sono le vittorie delle grandi squadre che sanno che in una partita comunque hanno più qualità rispetto agli avversari, non sono ancora al meglio, non sono ancora brillantissime, concedono occasioni, anche la Juve ieri ha concesso 4-5 palle gol al Chievo, però poi alla fine la portano a casa perché hanno più qualità. Mi sembra un po' la caratteristica delle grandi squadre, sinceramente. Quindi da questo punto di vista l'Inter mi sembra che stia crescendo bene, ma soprattutto stanno crescendo i giocatori dell'Inter. Merito anche di Spalletti, cioè Icardi è Icardi e Perisic sono i due più forti, per farla banale. Mi fate chiedere a Massimo Paganin cosa pensa lui. Io penso che oggi l'Inter abbia fatto un passo indietro, ve lo dico, sul piano del gioco. Poi ovviamente ha vinto meritatamente e 3 punti ha ragione Spalletti, con un campionato così serrato davanti pesano tutti. Però quei 20 minuti in balia della Spal nel secondo tempo devono far riflettere. Massimo? Sì, sono considerazioni che si fanno e riguardano solo ed esclusivamente la partita. Ci sta che in un momento nel quale sia stato cambiato l'allenatore e l'Inter deve ritrovare un'identità di squadra e costruire un po' quella che è la personalità e soprattutto il carattere della squadra, ci possono stare degli alti e dei bassi, ci possono stare delle partite nelle quali purtroppo le cose non vanno benissimo. Anche con la Roma nella parte centrale della gara l'Inter ha subito 3 pali, quindi diciamo così, è in una fase di costruzione. Però nella fase di costruzione mi sembra che ci siano delle idee di gioco, credo che questa sia la cosa più importante, sia un'identità di squadra e soprattutto un percorso di crescita che via via sta accompagnando la squadra. Soprattutto mi sembra che i giocatori si stiano fidando di ciò che Spalletti gli sta trasmettendo, e questa sia la cosa più importante. Sta crescendo come gruppo. Oggi è vero che ha avuto delle difficoltà nella parte centrale della gara, però io ieri ero a commentare la partita della Juventus e Allegri ha provato un modulo diverso, che era un 4-3-3 nella prima fase della gara, e anche la Juve ha avuto qualche difficoltà con il Chievo. Quindi se l'ha avuta la Juve, che sono 6 anni che vince lo Scudetto, che ha una struttura, un gruppo, un nucleo di giocatori importanti che ormai si conoscono molto bene, significa che c'è tempo e c'è spazio per poter crescere. Io credo che, ripeto, l'Inter e soprattutto Spalletti stia lavorando nella direzione giusta. È chiaro che la consapevolezza della propria forza, l'autostima e la sicurezza passano attraverso però anche i risultati. Quindi anche nelle situazioni difficili, diceva giustamente Pierluigi, se non sbaglio, Pierluigi Pardo, le grandi squadre vincono le partite difficili in questo modo. Questi punti fatti così portano sicuramente accrescono l'autostima, accrescono la fiducia e sicuramente per la fine dell'anno sono punti importanti, punti pesanti che comunque sono arrivati. L'Inter probabilmente di qualche stagione fa non avrebbe nemmeno portato a casa questi punti. Beh, quella dell'anno scorso, inizio stagione, no, di sicuro. Non ha le coppe. Ma posso dirti, queste partite sono difficili. Sì, ma mi fate capire se siete d'accordo con Iacobelli, che Iacobelli ha detto, vediamo il Napoli questa sera, ma l'Inter è l'antagonista della Juventus per lo scudetto. No, Pierre, secondo me no. Per me è terza nel ranking. Anche secondo per me il Napoli è l'antagonista. Però io sono d'accordo che l'Inter merita molto rispetto e occhio e croce in questo gioco delle terze di serie la metto al terzo posto. Perché mi sembra la squadra che ha più potenziale, più talento, con meno impegni. Fatto delle coppe, secondo me non è un dettaglio. Qui guarda, la vera domanda è, che faccio anche a voi, è simile alla partenza di Mancini di due stagioni fa, se non sbaglio? Per me no, perché quell'Inter lì aveva preso il comando della classifica, lo ricorderete, con una serie di vittorie però veramente molto erano le vittorie 1-0, ma al di là del risultato molto complicate, e non c'erano secondo me i grandi sviluppi, cioè il grande potenziale di crescita. Questa squadra qui può crescere, cioè la mia sensazione è che per Spalletti si sia solo all'inizio. La vera incognita secondo me è dietro dal punto di vista del mercato, perché comunque è vero che Spalletti ci ricorda che D'Ambrosio e Ranocchia possono fare i centrali, però insomma dietro secondo me è un po' corta. E quindi lì, se malauguratamente qualcosa dovesse saltare, secondo me l'Inter ci sarebbero dei problemi. Ma guarda, io voglio condividere questo pensiero con voi, con Massimo Paganino. Oggi, nel momento della difficoltà dell'Inter, io ho dato un'occhiata alla panchina, a parte i due portieri, per cambiare in mezzo al campo la partita dove l'Inter stava soffrendo. Evidentemente c'erano Vecino e basta, perché Brozovic è un centrocampista offensivo e quindi difficilmente sarebbe stato utilizzabile. Gli altri erano Padelli, Berni, Van Duysen, Ranocchia, Nagatomo, Caramò ed Ere Pinamonti. Sì, però Giovanni, non possiamo dire, al di là delle situazioni contingenti, che l'Inter sia una squadra corta in valore assoluto. No, però assoluto, per 17 partite sarà così. Ma non possiamo dire, sì, ma non possiamo dire che sia una squadra corta in valore secondo assoluto. Secondo me l'Inter è una squadra molto corta, Massimo. Sì, mancherebbe ancora qualche cosa. Manca, però, forse aveva ragione Spalletti che diceva, se va via con Dobbia manca anche un centrocampista di quelli, sì, di rottura. Esatto. Le coppe sono una differenza enorme. Le coppe sono... Prego, paga. No, scusami Pier, dicevo, appunto sì, le coppe fanno tanta differenza, quindi lui può giocare con questa squadra fino alla fine del campionato praticamente, quindi senza dover cambiare nessuno, voglio dire, mentre le squadre che giocano la Champions devono fare per forza un turnover, perché sì, nell'arco della stagione è chiaro che gli impegni di Champions sono impegni che ti portano via energie fisiche, ma soprattutto nervose, perché la prima parte bene, poi dopo cominciano gli impegni importanti, ma anche nella prima parte ci sono dei gironi non semplici, non facili, dove devi giocare tutte le partite per vincere. Non puoi pensare di non avere una rosa profonda. L'Inter probabilmente sta strutturando anche per la prossima stagione e quindi ha fatto delle considerazioni diverse. Però condivido il pensiero di Pierre che l'Inter per me arriverà nelle prime tre. Poi se sarà l'antagonista della Juve o sarà il Napoli, è chiaro che sarà da vedere. Io ho sempre un pensiero comunque e dico che l'Inter, a differenza del Napoli, ha la possibilità di colmare quel gap molto più velocemente, perché è uno storico molto più importante del Napoli. Tutto qua. Però è vero che il Napoli ha cambiato poco e ha dimostrato, credo, nella prima parte della stagione. Poi adesso potrei essere smentito questa sera, però il Napoli ha dimostrato di avere proprio un'identità di squadra, è cresciuto, è maturato molto e soprattutto continua ad avere un gioco che è veramente un gioco importante. Questo è vero. Abbiamo il traffico, grazie Massimo. Ciao Max. Grazie a voi, buona serata. Ciao, Massimo Paganini. Intanto siamo negli ultimi 5 minuti di Lazio-Milan, risultato 4-1 per la Lazio, il gol, tripletta di Immobile, gol di Luis Alberto e poi sul 4-0 è arrivata la rete di Montolivo, 800-24-0024, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... Tutti convocati. Il mister ha subito dato la sua impronta di gioco e penso si sia visto in queste tre partite. Siamo contenti soprattutto che i risultati stanno venendo, sicuramente c'è da migliorare perché commettiamo ancora qualche errore di troppo, però sono sicuro che durante l'allenamento ce lo lavoreremo parecchio. Fin dall'inizio tutti corrono per l'altro e soprattutto anche quelli che entrano, subentrano, quando entrano fanno il loro grande lavoro, corrono, si sacrificano e penso questa sia la forza della nostra squadra. Questo Gagliardini oggi dopo Inter Spala e microfoni di Premium. Saluto Luca Marelli, ciao Luca. Ciao Giovanni. Adesso signora, diciamo due cosine su che cosa è successo oggi a proposito di VAR, però Mario D'Alessandria. Mario, buonasera. Vai. E grazie per la riconvocazione, adesso non ho più il viva voce. Vai. Voi siete sensibili e siete tra i pochi, ricordate che oggi Toni Cairoli ha vinto il nono campionato del mondo. Ha vinto a Dassen, l'hai ricordato. Vai. Ne parliamo domani. Grazie. Prego. Arrivederci. Ah, finita qua? Toni Cairoli, domani lo chiamiamo, domani lo chiamiamo e lo facciamo parlare con Mario da Bergamo, si chiama? No, Mario D'Alessandria. Mario D'Alessandria, bene, convocato anche domani WhatsApp per parlare con Toni Cairoli. Qual è il problema? Va bene, qual è il problema? Allora, io mi sono segnato 4-5 cosine da VAR, però diciamo quella che fa rumore, carissimo Luca Marelli, è quella che è successa a San Siro, non tanto per il rigore in sé, perché era dentro l'area di rigore, ma perché ci è voluta veramente una vita e mezzo per prendere una decisione semplice fondamentalmente, e Gavellucci e Mazzoleni davanti alla TV e Gavellucci in campo, secondo me hanno fatto un po' di casino. Ci aiuti Luca a capire? Ma in realtà hai detto un po' tutto tu, hanno fatto un po' di confusione secondo me, perché la decisione sul rigore era abbastanza semplice, non c'era bisogno di rivalutare con la visione del monitor, perché si tratta semplicemente di una rilevazione, non di una valutazione, perché il fallo era già stato segnato. Probabilmente, su questa è un'ipotesi che vediamo un po' di approfondire, che ha voluto vedere il video per decidere per doxo o non doxo, cioè sul cartellino da utilizzare, giallo o rosso. Questa è la mia ipotesi. Certamente ci ha messo troppo, 4 minuti e 12 secondi sono tempo decisamente eccessivo per una valutazione di questo genere. Posso dire, anche premesso che noi siamo, io non sono entusiasta del VAR, ma sono comunque positivo sul VAR, per cui dico va bene, ci hanno messo 4 minuti, hanno fatto casino, ma non puoi recuperarne due. Cioè, secondo me la cosa proprio, l'errore vero è quello, nel senso che nel momento nel quale si perde quel tempo lì, tu devi recuperare almeno 4 minuti. È veramente, perché se no sembra veramente che non sai contare, scusate la cosa. Tutto il resto è un errore, diciamo così, marginale, perché poi alla fine non hai massimo, preso la decisione giusta, una partita per 4 minuti, però ci consoliamo col fatto che hai preso la decisione giusta, quindi va bene. Però poi dai, ditevi di non puoi dare 2 minuti. Assolutamente. Secondo te, Luca, c'è qualche caso da VAR che è stato ignorato in quello che hai visto e stai vedendo? Te ne cito un paio: D'Albert Schiattarella, oppure se il rigore della Fiorentina fosse dentro o fuori. Allora, su quello della Fiorentina c'è stato silent check. Cioè, sostanzialmente i due VAR hanno confermato le valutazioni di D'Amato, rigore e nessuna sanzione disciplinare, semplicemente non dicendogli niente. Quindi perché il VAR erano c'è d'accordo. Stato. Okay. Per quanto riguarda l'episodio di Milano, è da rivedere, perché sicuramente c'è qualcosa che potrebbe essere discutibile sulla decisione di non sanzionare nulla, però c'è sempre il solito problema. Non è un chiaro errore. Ecco, quindi noi possiamo dire che se anche non è stato rivisto, ci teniamo l'errore dell'arbitro, e questa è a oggi quello che deve essere il VAR. Sì, esatto, però secondo me vedremo alla fine dell'anno quando finirà la sperimentazione, ma a mio parere quell'avverbio chiaramente verrà sostituito, perché in questa maniera è troppo vincolante. Soprattutto viene meno uno dei presupposti del VAR, cioè quella di lasciare all'arbitro la decisione. Perché in questo modo quando intervengono i VAR, la soluzione è sempre la modifica della decisione assunta in campo, e questo sostanzialmente ribalta la decisione dall'arbitro centrale ai ragazzi, ai due arbitri davanti ai monitor. Questo non è nella concezione del VAR. Sono i famosi problemi di crescita, capito Pier, no? Sì, che ha appena l'ultimo di allenamento, sì. Parolo, appena è stato espulso Parolo, terzo minuto di recupero per un fallo, giallo, per un fallo su Bonaventura. Sì, e tra l'altro, Parolo ha protestato, è stato espulso non direttamente, giusto per secondo giallo. Esatto. Il che credo Luca esclude eventualmente l'utilizzo del VAR, anche dovesse esserci ragionevole dubbio. Io non credo sia questo il caso, ma insomma, facciamo un caso di scuola che ci sia un errore. Sì, essendo secondo altro... giallo, il VAR non può scattare. No, questo lo facciamo per fare scuola. Ti dico anche, ti voglio sottolineare anche un altro aspetto: che secondo me con la VAR stanno anche emergendo arbitri che hanno qualità piuttosto limitate. Perché, per esempio, a Milano, con la nuova lettura della circolare numero 1 di quest'anno, la munizione che era stata comminata andava tolta e non è stata tolta, perché nonostante vi abbia visto il video non ha tolto la munizione. Questo è un errore molto grave, perché siamo in area di rigore, in area di rigore viene depenalizzata a livello disciplinare la sanzione, perciò si poteva fermarsi al calcio di rigore. Esatto, e poi soprattutto a Udine. A Udine non si può non vedere un intervento killer come quello di Bertolacci. Poi ci ha pensato alla televisione ed è arrivata l'espulsione. Ci dobbiamo fermare, grazie Luca. Ciao Luca, grazie a voi. Presto. Grazie ciao, anche a te, ciao, carissimo ciao. Pier. Ciao ragazzi. Ciao, a domani. Ciao. È finita Lazio-Milan 4-1, ripartiamo da qui e facciamolo il processo a Montella, però. Vabbè, e a questo Milan. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Da lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone. Dal lunedì alla domenica alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Convocati. Tanto è cominciata Benevento Torino, da un minuto si gioca sotto un autentico diluvio che sta rendendo difficile anche la trasmissione televisiva della partita. Il segnale continua a saltare, segnale di Sky in questo caso, e insomma Benevento si gioca in condizioni davvero al limite. Saluto Stefano Ragno, ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti. 800 24 00 24, siamo qui ancora un'ora, vi aspettiamo, prenotatevi per intervenire in diretta oppure per scrivere 349-238-6666 sms e whatsapp. Allora, i tifosi sono impietosi, ve lo dico, parliamo del Milan ovviamente. Insomma, c'è chi scrive: portiere e difensore più pagati della Serie A per prendere questa bambola ridicola, oppure la colpa di Montella, se fai giocare Calabria, Borini e Cutrone, lasci in panchina quelli più forti, allora vuol dire che il problema sei tu, Montella inadatto, e poi insomma la squadra è sopravvalutata, non certo però dalla società e nemmeno dall'allenatore, ma solo dalla stampa che l'ha pompata per tutta l'estate. Poi io ve li leggo, spendi 70 milioni per due punte e poi gioca Cutrone, qualcosa da chiarire al mister c'è. Stefano. Purtroppo quando si perde e si perde anche malamente escono si fanno le critiche strutturali, Ragno, si fanno le critiche strutturali, è tutto sbagliato, tutto da rifare, è sempre così, però è certo che brucia, si sono visti delle problematiche, si sono visti dei problemini, no, in fase difensiva, che comunque se giochi a 4 con Bonucci e Musacchio non sono molto veloci, in certe circostanze potrebbero essere infilati, come lo stesso Rodriguez, che non è velocissimo anche se è un giocatore tattico di posizione. Perciò sai, nel primo tempo sembrava che il Milan avesse veramente in mano la partita, i primi 20 minuti c'erano anche delle situazioni dove potevi certamente sfruttare meglio quelle poche volte che sono arrivati lì, però si erano arrivati anche abbastanza bene, ma l'ultimo passaggio, la scelta del tiro è stata sbagliata. E poi diciamo che questo Milan ha sempre risolto tanti problemi anche Suso, che quest'oggi il primo tempo è stato evanescente e dopo sei sul 4-0, ha iniziato a fare qualche cosina, ma troppo tardi, diciamo. Da archiviare subito, di solito tante volte le sconfitte possono anche insegnare molte cose, e poi non dimentichiamo che comunque dei giocatori importanti come lo stesso Bonaventura, che è rientrato adesso, lo stesso Romagnoli in difesa, che dovrebbe essere il punto. Sì, oggi era in panchina, non è entrato, ma era in panchina. Però diciamo che ci stanno comunque tutte le carte in regola per poter fare un buon campionato. È normale pensare subito primo anno di fare centro o vincere lo scudetto, no, però secondo me l'organico può essere no però Stefano, il buon campionato, senza farci troppo dei giri di parole, è dentro il quarto posto, certo, questo è chiaro, per mille ragioni obbligatorio all-in per il Milan, secondo me sappiamo. Il messaggio che viene oggi è intanto che per quei quattro posti corrono in sei e non in cinque, come ci eravamo abituati a pensare, a dire con un po' di leggerezza, e con questo rispondo a chi ci chiede di sottolineare che la Lazio è un'ottima squadra, lo diciamo senza problemi. E lo diciamo da anni, peraltro. Sì, però è vero che ci eravamo messi tutti a ragionare sul fatto che correvano in 5 per 4 posti e invece sono in 6. La Lazio fa la corsa per la Champions League, e l'altra risposta è che se tu comunque a metà settembre prendi una bambola così all'Olimpico contro la Lazio, probabilmente devi fare un ragionamento sugli obiettivi. Che non sono lo scudetto, ragazzi, lo scudetto è una follia pensarlo. No, però mi sembra presto. Poi volevo anche aggiungo questo. Tu mi insegni, Stefano, che anche dal punto di vista difensivo, quella che serve alla chimica, ad esempio, Costa Curta, velocissimo nei recuperi, era quello che si sposava perfettamente con le caratteristiche enormi di Franco Baresi, tanto per fare un esempio. Punto. No, ti dico che due lenti non possono stare centralmente se non giochi a 5, no? Il problema è che poi comunque Bonucci è un maestro a 5, quando giocavano a 4 avevi comunque un Chiellini, che era un difensore vero, pur avendo i propri anni, in Barzagli, molto veloce, e lui era il regista difensivo. Perciò penso che in futuro, quando recupereranno la forma, soprattutto Romagnoli, perché è quello che si sposa, o lo stesso Zapata, perché anche Zapata, sì, ma senza Romagnoli Montella non può provare la difesa 3? Sì, chiedo, no, perché poi allora questo diventa un tema oggi. No, ma io ti dico, la Fiorentina, la prima Fiorentina che giocava a 5, perciò non vedo perché non possa ogni tanto provarla. È anche vero che lui vive la giornata con tutti i giocatori e cercherà di mettere in campo quelli che al momento possono fare certamente meglio. È certo che anche la società ha cercato a tutti i costi un centravanti che segnasse tanti gol, perché il Milan, quello vincente, ha sempre avuto il vertice offensivo, il più fuori, un pallone d'oro, no? Quello che ti garantiva comunque tanti gol. In questo momento i gol vengono da Suso, che è un esterno, vengono, sì, Cutrone, che però è un giovane che te lo sei trovato lì e si muove anche bene, però sei comunque un giovane, hai speso tanti soldi per un giocatore che non hai fatto giocare, 39 milioni di giovani anche lui, e poi c'è i Kalinić, che comunque insieme, non so se hanno fatto tantissimi gol all'anno, quale sia il massimo. Kalinić è un giocatore da una quindicina di gol in Serie A, che non sono pochi. André Silva l'anno scorso ne ha fatti 16 nel campionato portoghese. Però ragazzi, non trovate che, lo chiedo a tutti e due, a Giovanni e ovviamente a Stefano Aranio, non trovate che Kalinić sia quello che permette gli inserimenti comunque di centrocampisti, quelli del Milan, che potenzialmente hanno tanti gol nei piedi? Voi cosa ne pensate? Giovanni, tu cosa ne pensi? No, io penso che sicuramente sì, però secondo me non è oggi questo il tema. No, è un tema strutturale anche questo. È un tema strutturale. Adesso sentiamo Stefano, io poi vi dico che cosa secondo me invece oggi va fatta come riflessione, e secondo me un po' di preoccupazione deve portare nei tifosi del Milan. Però Stefano, su Kalinić. Kalinić è un giocatore molto intelligente, un giocatore che può farti giocare molto bene, spalla alla porta, uno che sa crearti gli spazi, anche perché quando si gioca con questo modulo, spesso e volentieri la punta viene, ti crea lo spazio per gli esterni, lo stesso Borini per rientrare e calciare, lo stesso Sturzo per rientrare e calciare, perciò non si sfrutta proprio moltissimo la punta per mandarla in gol, se non quando arrivi sul fondo e lui è bravo di testa, può comunque inserirsi. Però io non devo, io penso che non bisogna neanche fare questi dire troppe cose, anche perché un risultato, una giornata storta può succedere, può soprattutto anche perché dopo la settimana della nazionale, perciò si è lavorato poco, gente che ha viaggiato, gente che comunque non era certamente nelle condizioni migliori, perciò non è stato secondo me neanche semplice per lui. Ce ne saranno altre, perché poi c'è la Coppa UEFA e ti troverai nelle stesse condizioni. Bisogna risolvere, ecco, il tema di fatti secondo me è quello, Stefano, perché è vero che il Milan è cambiato quasi tutto e quindi fisiologicamente bisogna dargli tempo, però è vero che leggo la formazione titolare di oggi: Bonucci, Musacchio, Rodriguez, che sì, sono giocatori, Borini, sono giocatori che di fatto hanno fatto tutta l'estate con Montella, quindi hanno avuto tempo per lavorare, e la difesa 3 quando la provi? Cioè, secondo me siamo un attimo in ritardo sulla tabella di marcia. No, quello sicuro, non capisco perché non l'abbia ancora provata, perché ci sono i giocatori per poter, anche lo stesso Calabria secondo me è molto più utile con la difesa a 3 che non a 5, quando non c'è Conti, addirittura Conti è uno che ha giocato tutto l'anno che Gasperini, perciò è un giocatore che comunque sia forse più atletico, quello che può fare sia la difesa 3 che la 4, anche se è più attaccante che difensore, ma è uno molto veloce, può recuperare. Perciò anche lo stesso Rodriguez, secondo me, essendo così non molto veloce, è uno che con la difesa ci ha... Sì, è una rosa fatta per giocare 3-5-2, inutile. Io penso così, che... a guardarlo. No, sicuramente sì, 3-5-2, ma poi dovresti fare a meno, oppure cambiare posizione, non so, a Bonaventura, metterlo a centrocampo invece che largo, perché Suso sarebbe dietro la prima punta. Perciò dovresti fare a meno di certi giocatori che in questo momento forse sono quelli che hanno più qualità e hai bisogno di averli in campo. Ascolta, c'è il traffico, grazie Stefano. Ciao Stefano. Grazie a voi. Grazie, ciao. Stefano Ragno, traffico 800 24 00 24, 11° 00 Benevento Torino. I love this game. Tutti convocati. Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Vi presento. Tutti convocati. Una brutta sconfitta. Ci sono tante cose negative che si leggono, dove dobbiamo, possiamo e dobbiamo lavorarci, quindi vedere il lato positivo se c'è in questo. Sicuramente avevamo iniziato la partita in maniera importante, e poi è un episodio a livello psicologico ha cambiato la partita, che è stato il calcio d'angolo che ha creato una palla con la Lazio, e da lì abbiamo perso un po' di coraggio, un po' di velocità, e pian piano la Lazio è venuta fuori, è stata cinica sia nel primo tempo ma soprattutto all'inizio della ripresa, e poi nonostante il gol non abbiamo avuto quella forza e quella reazione mentale necessaria per questa partita. Ognuno voleva risolvere qualcosa, e ecco, questa dimostrazione che anche questa è una dimostrazione che dobbiamo ancora diventare squadra, e veramente ci sono pochi allenamenti sulle spalle per la rosa al completo per tantissimi motivi, ma lo so che non c'è tempo in generale, ma questa sconfitta fa male, questa sconfitta ci riequilibra un po', e abbiamo le prossime partite per metterci in carreggiato. È un passo in più. Allora, questo Montella, i microfoni di Premium Sport, saluto Alberto Zaccheroni, grazie mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Senti, buongiorno Zac. Dai un consiglio a Montella, cioè come si gestisce, non tanto dal punto di vista tattico, ma come si gestisce una sconfitta che fa male, l'hai sentito, ha detto Montella, e che può magari avere ripercussioni anche superiori a quello che è un passo falso a Roma, che ci può stare. Ma la squadra, la sconfitta brucia sicuramente, perché il Milan è andato in crescita, no? È arrivato con tutti gli acquisti che ha fatto, e anche tanti di questi di grande qualità sono arrivati a questo punto, questo inizio di stagione, con grandissime aspettative. Quindi una sconfitta così evidente in casa della Lazio sorprende e toglie non totalmente l'entusiasmo che aveva accumulato in questo inizio di stagione, dall'inizio del precampionato ad oggi, però toglie tanto. Ed era una grande era e penso che sia ancora una grande risorsa di questo Milan, il non avere questa grande pressione che hanno tutte le altre squadre. Dal Milan non c'è una grandissima aspettativa in vista dello scudetto, quindi si aspettano tutti una buona stagione, ma non in chiave scudetto. Beh, Alberto, oggi non c'è Tommaso D'Abate, quindi non ti faccio parlare di politica come l'altra volta, che ci siamo divertiti un casino. Ma non c'è L'Abate. Volevo dire che per rispondere alla domanda, sì. Io sono solito con le mie squadre non parlare dei risultati. Quindi se fossi Montella non parlerei proprio del risultato, io parlerei della prestazione, io terrei alta la concentrazione sul risultato. L'ho già detto in un altro intervento, nella vostra trasmissione, perché il risultato porta ansia, la mancanza di risultato porta ansia. Io credo che quello che ti consente di costruire la tua classifica sia solamente la prestazione, e il Milan, che ha cambiato forse senza porsi più di tutti, deve costruire. Prima si costruisce. Bravo, vai. Quello che ti dico, mister, è che in primo luogo a Milano, lo sai bene, da tutte e due le parti, lo sai bene a Torino, insomma, sono posti dove non puoi non avere pressione, perché te la mettono addosso e lo sai. In secondo luogo abbiamo detto molte volte che il Milan ha giocato un all-in con questa proprietà e con tutti questi soldi spesi, cioè obiettivo minimo Champions League, certo, quindi posto, se sbagli zona della classifica è un cataclisma. Sì, diventa una situazione che poi ha ripercussioni più alte, però mi interessava molto. Non sono totalmente d'accordo che a Milano è inevitabile la pressione, perché io ho vissuto la mia esperienza del 98 col grande vantaggio che dopo un undicesimo posto con Sacchi in panchina e un decimo con Cappello, io questa pressione non l'ho avvertita. Noi abbiamo avuto la possibilità di costruire, noi non siamo andati in giro, non abbiamo fatto tournée da nessuna parte, non siamo usciti da Milanello, come ho sempre detto, e questo ci ha consentito questa non pressione ci ha consentito di lavorare, abbiamo costruito sulla prestazione e nel girone di ritorno abbiamo avuto 0 infortuni. E ci ha consentito di fare poi tanti punti, perché poi dopo, quando stai meglio degli altri, puoi mettere in campo tutti coloro che stanno meglio e sono più adatti a quel tipo di partita. Per noi allenatori, per tutti, è una manna, è un vantaggio, è una manna. Quindi, quella continuità di cui parlava Montella, che il Milan in questo momento non ha avuto e non ha. Allora, Montella invece bravo a sfruttare questo fattore, che non ha grande pressione sul risultato, almeno inizialmente, quindi deve parlare solamente e concentrarsi sulla prestazione. Il linguaggio con i giocatori deve essere solamente sulla prestazione. Quindi io oggi una prestazione come quella di oggi non la commenterei neanche. Quindi il 4-1 non esiste, e adesso la sto portando al paradosso, però concentriamoci sul resto. A proposito di prestazione, che mi interessa il discorso, voglio farvi sentire Allegri ieri a Premium dopo Juve-Chievo. Su questa storia del gioco non gioco, al di là che lui è stizzito e lo si capisce anche ascoltandolo, però in tanti oggi hanno detto non serve tutta quella roba lì per esprimere il gioco che ha fatto la Juventus, che è Dybala dipendente. Voglio sapere cosa ne pensa Zaccheroni prima, però sentiamolo Allegri. È soddisfatto di come gioca la Juventus? Ma non lo so, io non so come gioca la Juventus, io so che bisogna vincere, ci sono delle partite in cui giochi meno bene e vinci e delle partite in cui giochi bene e vinci, ci sono gli avversari, siamo all'inizio della stagione, quindi non lo so, io a volte sorrido molto su questa cosa perché sento dire gioca bene, cosa vuol dire giocare bene a calcio? Forse non sono io che riesco a capirlo. Intanto 20° minuto, 0-0 Benevento Torino, ha un po' smesso di piovere. Come gioca oggi la Juve, Zaccheroni? La Juve fa oggi no, però è una squadra che si fa risultato, è una squadra pratica, è costruita con tantissima qualità, ma ha un gioco non fatto di tantissimo palleggio, ma di grande penetrazione, di grande profondità, ha davanti non a caso tre uomini che fanno quasi esclusivamente la fase offensiva, perché non veniamoci a raccontare che l'ultimo Mandzukic è quello che si è guadagnato il posto sulla fascia destra, sulla fascia sinistra. Mandzukic oggi di fase difensiva ne fa decisamente molto meno rispetto a una passata stagione, quindi ci sono tre giocatori che giocano prevalentemente nella fase offensiva e gli altri che lavorano per loro, ma con grande sostanza, non con grande palleggio. Però io mi diverto a vedere la Juve, perché sì, anche i giocatori, i protagonisti sono di assoluta qualità. Sì, anche io, anche se Dybala lo aspetto, dicevo prima, al piano di sopra, perché che sappia risolvere partite come quella di ieri con colpi da geniali, lo sappiamo. Adesso lo aspetto al piano di sopra, a Barcellona ad esempio lo aspetto con col Barcellona qualche mese fa ha fatto la sua miglior partita, sì, credo, Giovanni, della carriera. Sì, però sappiamo bene che il grande campione non stecca certi appuntamenti con certi avversari. Ma oggi la Juve dipende da Dybala? È dipendente da Dybala con tutto quello che significa questa domanda? No, secondo me no. Mister? Campionato italiano? No, assolutamente. E fuori ancora... anche fuori oggi, perché fino ad oggi non ci ha fatto poca differenza anche fuori. Quindi oggi la Juve non è dipendente da Dybala. E non ha bisogno di Dybala per vincere questo campionato. Non ne ha bisogno. La Juve ha un sacco di armi e non ha bisogno che Dybala inventi il colpo di genio, perché io sono d'accordo con Alberto quando dice mi diverto a vedere giocare la Juventus. Io mi diverto a vedere giocare la Juventus perché ha grandi interpreti. Poi quelli che non so che cosa si aspetti la gente da questa squadra, non so. Grande idea, grande personalità. Bravo Alberto, ma a chi sono rivolte queste critiche? È bella la Juventus? Come gioca la Juventus? Allegri ha risposto giustamente per le rime, ma non so nemmeno io. Ma cosa volete? Guardiamo i numerini, che cosa volete guardare? Che cosa volete da me alla fine? Alla Juventus si chiede esclusivamente di vincere. Esatto. A Cardiff non ha vinto e è successo il finimondo. Critiche che sono arrivate a Uffa. Sì, ma anche legittime, perché poi è vero che quando vai e vai anche con l'aspirazione di poterla vincere, diversamente per forse carità da quello che era successo a Berlino, no, anche perché mancata anche poi la caduta fa discutere. Nel secondo tempo la squadra non si è vista assolutamente. Grazie Zaccheroni. Grazie mister, a presto con l'Abate, che parliamo di politica, destra e sinistra, comunisti e fascisti, Giovanni. Grazie ad Alberto Zaccheroni. Allora, 24esimo 0-0 Benevento Torino. Ci fermiamo, c'è il meteo, poi gli aggiornamenti sulla questione maltempo. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Convocati. 27esimo minuto a Benevento, 0-0 Benevento Torino, condizioni meteo che sono decisamente migliorate dopo il diluvio con cui è iniziata questa partita. Abbiamo gli aggiornamenti invece sul maltempo. Anna Migliorati. Sì, e non sono ahimè buone notizie, perché a questo punto non è ancora ufficiale, ma sarebbe stata individuata la settima vittima a Livorno. Quindi sarebbero 7, non 6 le vittime, e resterebbero ancora 2/3 dispersi. La Procura di Livorno nel frattempo ha aperto un'indagine sul seminterrato sommerso dall'esondazione del torrente Rio Ardenza, nel quale, ricordiamo, sono morte 4 persone, madre, padre, un bimbo di 4 anni e il nonno, salva solo la sorellina di 3 anni. Il piano terra della palazzina e il seminterrato sono sotto sequestro. Non sono belle notizie neanche quelle per le prossime ore, perché l'allerta arancione per rischio idrogeologico ancora per questa sera per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. E per domani si replica Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Veneto, Umbria, Puglia, Sicilia, insomma, allerta ancora altissima. Grazie Anna, e quindi insomma continueremo con la programmazione di Radio 24 ad aggiornarvi sulle vicende del maltempo. Adesso invece parliamo di Dybala contro Messi. Nel calcio del collettivo sei stato comunque un esempio di come un singolo può cambiare una partita. No, la squadra stava vincendo. Quando il mister mi ha fatto entrare abbiamo cambiato modulo, mi sono avvicinato un po' a Gonzalo, che era secondo me un po' da solo, però la squadra ha giocato molto bene, mi sento bene, ero un po' stanco dal viaggio, però sono contento. Sorrentino, fino all'ingresso in campo di Dybala non avevi corso grossissimi pericoli. Sì, era meglio che rimaneva a fare riscaldamento come ha fatto durante la prima parte della partita. Lo conosco bene, parecchie volte mi ha fatto volare a destra e a sinistra in allenamento per cercare di prendergli qualche pallone. Io gli ho sempre detto che ha tutte le qualità per vincere il pallone d'oro. Sta crescendo molto Paolo, è cresciuto fisicamente, è cresciuto tecnicamente, cioè tutti i numeri per poter diventare insieme a Neymar quando smetterà Ronaldo e Messi i due giocatori più forti al mondo, quindi sono contento per lui, per quello che sta facendo, sono fortunato io a poterlo allenare. Io credo che Allegri faccia apposta a spingere così su Dybala in questa stagione, l'ha detto anche qualche settimana fa, lo aspetta una grande stagione in Champions League, è lì che deve dimostrare e credo ci sia una strategia chiara, quella di Allegri su Dybala. Tanto saluto dalla Spagna Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Ciao, ciao Giovanni. Ciao Phil. C'è una strategia, ciao, perché se tu dici quando si ritirano Messi e Ronaldo, questo insieme a Neymar è il migliore del mondo... evidentemente hai in testa qualcosa. Sì, beh, io la sposo questa teoria, insomma, o anche se vogliamo questo spronare Dybala, per me è giusto, bisogna provarci, poi dopo ce lo dirà il tempo, ci dirà, magari ci può essere anche Mbappé o Dembélé, vedremo, però è in quei 3, 4, 5 candidati al sogno pontificio, al regno. Sì, no? Sì, alla successione al regno. Intanto c'è Messi. Però i grandi giocatori sono quelli che vincono le grandi partite e quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando. No? Adesso Dybala, ripeto, deve salire al piano di sopra. Ieri col Chievo l'abbiamo visto, come abbiamo visto mille volte. Ieri abbiamo visto Messi con l'Espagnol, una partita fotocopia degli ultimi 5 anni, puoi mandare gli highlights di 5 anni fa, non so quanto è finita Barcellona e Spagnol, però sarà una roba simile. Sì, più o meno sempre così, però sono appunto, gli ultimi diciamo 4 anni è sempre un 5-0, 5-1, 4-1, sì. Quindi questi li aspettiamo al piano di sopra, perché lì va bene, giocano con i bambini. Sì, dipende, bisogna vedere. Comunque martedì già abbiamo un'altra. Anche perché vai a dirlo al Real Madrid, che ha fatto uno con Levante. Esatto. Ma capita ogni tanto incidente di percorso, dai. No, però lo sai che questo è il mio vecchio cavallo di battaglia. Io, per me è meno semplice di come la vogliate mettere voi sul questo campionato spagnolo, però so che insomma è chiaro che da lì può sembrare tutto facile, per me non è stato, a parte ieri poi il primo gol era in fuori gioco, insomma, quindi dopo sono crollati alla fine, però in generale voi martedì è già un buon banco di prova e in primavera Dybala all'andata praticamente aveva smontato da solo il Barcellona, poi al ritorno qualcosa di meno, no? E adesso vediamo, gli è mancata la finale a Dybala, la finale di Champions era un'altra di queste occasioni che probabilmente fanno parte dello spronare di Allegri spera di ritornare di nuovo in una situazione come quella di Cardiff e che stavolta Dybala faccia il suo, no? Sì, ci sia un processo di crescita che arriva a compimento, anche perché Dybala credo sia un 93, quindi ha 24 anni o sta per compiere 24 anni. E i top player a quest'età qui poi dopo il salto lo fanno, sì, è arrivato il momento, però volevo capire se il Barcellona sta così male come ci siamo raccontati fino a settimana scorsa o se improvvisamente torna ad essere un avversario invece che sta bene in salute, ha ritrovato fiducia, ha ritrovato ambiente. Meglio, non ancora al meglio, però sicuramente meglio di qualche tempo fa. I due classicos diciamo sono stati digeriti, no? La sconfitta col Madrid e allora, prima cosa c'è questo Messi stratosferico, per cui sai, è anche un Barça minore con un Messi così è importante. Ieri sera ho visto bene di nuovo Jordi Alba, Iniesta, Rakitic, gente che ultimamente non aveva giocato granché bene, anche Busquets, per cui e poi bisogna vedere, ieri c'è stato un 20 minuti di Dembélé, è entrato anche Paulinho. È una squadra in rodaggio ancora, però leggermente meglio rispetto a quello che poteva essere solo anche diciamo 2 settimane fa, per cui è interessante. Secondo me sono in una situazione, se vogliamo, simile la Juventus e il Barcellona, no? La Juve non ha cambiato allenatore, il Barcellona sì, però la Juve ha cambiato parecchio, soprattutto la dietro. La Juve ha perso Bonucci e il Barcellona ha perso Neymar. Esatto. Sì, io però faccio il paragone Iniesta, soprattutto dal punto di vista dell'impatto emotivo, delle due separate. Sì, però... stemmiamo in chiesa. Esatto, però no, è l'impatto Iniesta... emotivo, l'impatto emotivo. Sosteneva che la perdita fosse simile, no? Perché voglio dire, l'importanza di Bonucci per la Juventus poteva essere equiparabile all'importanza di Neymar per il Barça. Può essere un azzardo, però lo dice Iniesta. Io non ha tutti i torti. Vediamo cosa succede adesso. Io ti dico, poi comunque la Juventus ha preso, no, Douglas Costa, Matuidi, sono personaggi che devono entrare in una squadra. E vediamo quanto tempo ci mettono. È il primo partidasso della temporada, no? Della stagione, vediamo come va. Non è definitivo, insomma, assolutamente, però ci può dare una buona indicazione. Non è definitivo anche perché nel girone c'è poco di definitivo, quando ci sono due che si staccano nettamente sulle altre. Cosa succede invece al Real Madrid? Oggi leggevo su un giornale, credo AS, la sindrome Cristiano, cioè manca Cristiano Ronaldo, fai due pareggi di fila in casa al Bernabeu. Manca, non so anche se si Morata. Possa spiegare tutto così. No, manca Morata. Io ne stavo scrivendo proprio adesso, perché poi sarà uno dei temi che tratteremo su ET martedì. Morata l'anno scorso ha fatto 20 gol. Era giustamente uno che fa 20 gol non può stare in panchina. Tra l'altro poi hanno offerto con 80 milioni e giustamente un panchinaro lo vendi per quella. A 80 milioni va via accompagnato dal presidente. Non solo del Real. Alla porta, no? Thanks for the memories, come direbbero gli inglesi, esatto. E arrivederci. E manca, cioè, la rosa che Florentino la settimana scorsa ha detto che era la miglior rosa del mondo, può aver ragione forse in prospettiva, in questo momento manca qualcosa davanti. E Ronaldo è squalificato, Benzema si è fatto male, ieri ha giocato centravanti Bale e non ha funzionato, manca un 9, non un falso 9. Sì, un 9 vero, perché poi sai, c'è anche, è curioso, hanno venduto anche quel Mariano, che magari in Italia non conosce nessuno, però questo ha fatto 4 gol in 5 partite al Lione, quindi tanto male non era. Adesso c'hanno Borja Mayoral, che è il prossimo centravanti dell'Under 21, tutto quanto, però è ancora molto acerbo. Per cui, ma i fenomeni che hanno distrutto l'Italia? Isco e Asensio va bene, ci sono, però sai, non, nessuno dei due però è un centravanti vero. No, cioè, non sto parlando di centravanti, sto parlando in generale. No, d'accordo, però gli manca qualcosina in attacco. Senza Ronaldo, appunto, senza Morata, senza Benzema, tu puoi avere una grande struttura, però no, c'è un così. Poi tornano, non è che sono tornano, ma Real Madrid non si discute, resta la favorita probabilmente per la Champions League, però insomma, ecco, colpisce la rosa, diciamo che ha una piccola lacuna, ha qualche falla, sì. Colpisce che stia a 4 punti dal Barcellona, che un mese fa, dopo il doppio classico, davamo per morto, invece le cose si sono ribaltate. Ti chiedo in 30 secondi invece come sta l'Atletico Madrid, perché martedì insomma c'è questo doppio incrocio sull'asse Italia-Spagna, è particolarmente bello. Come sempre, solido. L'Atletico è solido. Adesso ha giocato 3 partite fuori perché non potevano ancora inaugurare lo stadio. Lo inaugurano sabato prossimo. È un Atletico così roccioso che vedo per me potrebbe creare parecchie difficoltà alla Roma. Senza Griezmann fanno fatica a segnare, però all'Olimpico Griezmann ci sarà. Diciamo che è tornato anche lì, si è riaccesa la scintilla. Questo rinnovo del Ciolo anche sicuramente positivo per il morale. Sappiamo quanto conta questo allenatore per la sua squadra, forse è il peso più grande nel mondo, no? tra allenatore e squadra, è quello che più di tutti può cambiare le cose. Io vedo un Atletico ancora non spettacolare, ma sicuramente molto molto solido. Assolutamente, grazie Filippo. Ciao Fina, a presto. Voi. Ciao, ciao. Sentiamo settimana ovviamente. Allora, intanto 0-0, 38esimo minuto, Benevento-Torino, partita equilibrata, ma partita che stanno giocando due squadre che mi sembra non stiano rinunciando all'idea di provare a vincerla. Simone da Verona, Simone. Sì, ciao, sono Simone da Verona. Io dopo lavoro sono allenatore dilettante e oggi volevo mettermi nei panni di Montella dopo chiaramente la partita all'Olimpico contro la Lazio. Secondo me, non so se siete d'accordo, io alla squadra parlerei più che di sconfitta, di debacle, di occasione nella quale deve subito dimostrare con un certo riscatto di essere una squadra che punta al vertice più di puntare il dito contro sul risultato ampiamente negativo, perché chiaramente l'hanno visto anche loro. Sicuramente la squadra all'inizio stagione veniva data tra le favorite per l'accesso alla Coppa Campioni, le prime partite hanno fatto ben figurare, anche se però a mio avviso già la partita scorsa col Cagliari è stata un po' una vittoria un po'. Il campanello, diciamo, il campanello d'allarme era suonato, grazie Simone. Io però più che sulla questione psicologica punterei su capire perché un attacco rapido come quello della Lazio sia andato a colpire là dove ci sono, ne parlava anche Stefano Ragno, Carlo, le difficoltà e i limiti in questo momento della difesa del Milan. Ma stiamo parlando comunque di squadre incomplete, cioè di una squadra che ancora non è la versione definitiva. Sì, ma non è che ti aspettano, No, lo so che non è che ti aspettano, però ho capito, però stiamo dicendo che il campionato è iniziato adesso, che il Milan è una squadra nuova, ha bisogno di rodaggio, ha gente che si è infortunata, gente che ha iniziato la preparazione in ritardo, Montella sta facendo anche le sue valutazioni, so benissimo che non ti aspettano, però non puoi neanche, cioè non è Harry Potter come direbbe Mihajlovic, quindi ha delle difficoltà strutturali, si tratta di trovare la chimica giusta e la chimica giusta secondo me è con Bonucci e Romagnoli a comandare quella difesa, dai. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Cinquantasettesimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta convocati. 42:30 sul cronometro, primo tempo, Benevento 0 Torino 0. Walter dalla provincia di Milano. Walter. Sì, buonasera. Senta, ieri ho visto la partita della Juventus, perché io sono juventino. Continuavano a dire il 4-3-1, il 4-2-2, sì, il 4-3-3. Quando il primo tempo è stato noioso, e lo riconosco anch'io che sono juventino, secondo me al di là del fatto del 4-2-2, vabbè, sì. Secondo me contano più le persone che entrano come Dybala che scartavano 4-5 giocatori. Sì, però Walter, non è che l'organizzazione in campo non serve a niente, altrimenti prendiamo l'allenatore e lo mandiamo via, giocano i primi 11, quelli più bravi, e poi a scalare tutti gli altri. Sì, sicuramente, però quando ci sono giocatori come il secondo gol della Juventus, sì. Higuain che ha fatto o il terzo Bernardeschi, tutto il resto lì salta tutto, secondo sì, salta, me salta tutto, e anche no, perché poi bisogna mettere in condizione i giocatori di arrivare lì. Parliamo di basket, che abbiamo 5 minuti, c'è Marco Crespi che ci ascolta. Datome che vuole usare tutti i 24 secondi a disposizione, Figlioi al ferro, la scucchiaiata, vola ai quarti l'Italia, spinta da 12 giocatori, un intero staff. Un'altra buonissima prova di tutti quei ragazzi in uno spogliatoio, difendere contro questa squadra che è talentuosa offensivamente, tenerli a 57 punti è decisamente la cosa che volevamo fare. Siamo compatti, l'abbiamo dimostrato a Tel Aviv e niente, andiamo avanti. Marco Crespi, ciao. Ciao Marcone, quanto buonasera. Tempo, sì. L'ho abbracciato stamattina Marco Crespi. Un piacere. Ce la giochiamo con la Serbia, che ha battuto 78-69 l'Ungheria. Mercoledì sera Italia-Serbia vale un posticino nelle semifinali. Questa è la partita con le maiuscole, caro Marco. E penso che sia una partita bella da giocare, una partita bella da vedere, una partita che si può giocare. Come hai visto la Serbia? Si può giocare significa che si può vincere. Beh, questo è chiaro, che andiamo lì e ce la giochiamo con la medaglia d'argento olimpica, voglio dire, non mica paglia. Però oggi hai commentato questa partita con l'Ungheria che aveva il senso che aveva. Italia fin qui molto bene, secondo me, per quello che ha dato anche nelle sconfitte, anche la partita con la Lituania, quello che vuoi. Però adesso, appunto, la partita, la prova del 9. Sì, molto vero che fino adesso bene, perché la squadra gioca in modo serio con emozione, che è una perfetta combinazione. Adesso ovviamente arriva una squadra forte, una squadra che gioca con organizzazione e durezza mentale, in più la possibilità di arrivare al sogno delle semifinali, quindi da tutti i punti di vista qualcosa che è possibile. Credo che Bogdanovic, Marjanovic, cosa facciamo contro di loro, credo che una delle chiavi possa essere come attaccarli, non tanto pensare a come difenderci, perché la nostra difesa è già solida e sarà ancora più solida perché Messina è fantastica a preparare la singola partita. Sì, anche perché noi in attacco o facciamo benissimo come i primi 20 minuti con la Finlandia o si spegne la luce. Però abbiamo delle gerarchie, come dicevo stamattina Marco Crespi fuori dai microfoni, abbiamo delle gerarchie precise. Sì, però a un livello più alto quei blackout lì non te li puoi permettere. No, vabbè, non siamo fenomeni, ma abbiamo gerarchie, abbiamo un filo logico e un filo conduttore. È vero, e poi penso che la pallacanestro viva di percentuali. Ieri nel primo tempo abbiamo sempre fatto canestro, non si può fare sempre canestro, e credo che anche nel secondo tempo la qualità del gioco è stata elevata, solo non abbiamo fatto canestro. Però gli alti e bassi che tutti noi citiamo sono alti e bassi di percentuale, perché la costanza della qualità del gioco c'è sempre. Francia-Lituania fuori cosa significano? Che un europeo dove si può sognare? È un campionato difficilissimo. Cioè tutti quelli che partivano un po' dietro, e ci mettiamo anche l'Italia, possono immaginare chissà cosa. Difficoltà pazzesca questo torneo. Si può sognare perché c'è proprio grande equilibrio, e poi soprattutto ha dimostrato l'eliminazione della Francia che se sei molto snob e hai una lista di troppi giocatori senza le gerarchie che citava Carlo, fai poi confusione. Sì, rischi di perderti via. E poi insomma vediamo, perché quando arrivi a giocarti un posto nelle semifinali, diciamo la verità, partendo fra infortuni e tutto, con un nazionale che in tanti abbiamo detto non è fatta per arrivare tra le prime quattro, poi dopo come stazza, poi dopo come, anche come l'elemento talento psicologico diventa, sì, però, diventa importante. Vincendo questa partita, sarà, se l'Italia vince questa partita, ha comunque fatto un grandissimo risultato. È per quello che dico risultato... è la partita chiave. Il risultato, ovviamente tutti guardiamo al piazzamento finale, a dove si raggiunge, però io credo che questa nazionale, per quanto sta facendo, per percorso di crescita che sta facendo, ha già dimostrato di essere vincente, perché sta arrivando quasi a ottimizzare il suo potenziale, e questo credo che sia un percorso che va sottolineato. Sì, sta dando quel 100% che questa generazione altre volte ha dato l'impressione di non aver dato. Sì, però serve l'argento, ragazzi, cioè dal 2004, che pettiniamo le bambole e guardiamo gli altri vincere, quindi... Intanto ci hanno tolto di strada la Lituania, che se si dovesse andare avanti era dalla nostra parte ed è la nostra bestia nera. Grazie a Marco Crespi. Ciao Marcone, ti vengo a trovare grazie presto. A voi, ciao a tutti. Ciao. Che dovete continuare a sentire su Sky, perché va avanti questo meraviglioso europeo con la settimana decisiva tutta dalla Turchia. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato e Roberta Fresani, che si sono alternati in regia. Tutti i convocati torna domani alle 14, Carlo Gente tutti per Luigi presenti. Pardo. Noi invece ci risentiamo domenica alle 17. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!